Alibaba e i 40 ladroni, terza parte. Quando Baba Mustafa ebbe finito, Morgiana gli bendò nuovamente gli occhi e lo ricondusse nella sua bottega, dove lo lasciò dandogli la moneta d'oro promessa e raccomandandogli il segreto. Così il corpo di Cassim fu rivestito a nuovo secondo l'usanza e il funerale poté svolgersi normalmente con grande concorso di folla. Pochi giorni dopo, Alibaba si trasferì con la famiglia nella casa della cognata, così come erano d'accordo. Tutto sembrava tornato tranquillo, ma ecco che un giorno i 40 ladroni tornarono nella loro caverna e subito si accorsero che il corpo dello sconosciuto era scomparso. «Siamo perduti», disse il capo. «Il nostro segreto era noto non soltanto a colui che è morto, ma anche a quello che è venuto a prendere il corpo. Bene, dovremmo trovare anche lui e ucciderlo». Discussero a lungo e alla fine uno dei ladroni si offrì di andare in città a scoprire qualche cosa. Si travestì da mercante e partì durante la notte. Arrivò sulla piazza della città alle prime luci dell'alba e vide che l'unica bottega aperta era quella di un vecchio sarto. «Buon uomo, cominci a lavorare assai presto», disse il ladrone avvicinandosi. «Chiunque tu sia», rispose Baba Mustafa, poiché era proprio lui, «mi conosci assai poco. I miei occhi sono talmente buoni che io ho cucito un vestito ad un morto, in una camera buia, soltanto pochi giorni fa». Qualche cosa fece capire al ladrone di essere sulla buona pista. In breve, Baba Mustafa raccontò tutto quello che sapeva. Ma se il ladrone volle conoscere la casa dove il vestito era stato cucito, dovette bendare gli occhi al vecchio e lasciarlo camminare come aveva camminato quel giorno con la bella Morgiana. Infatti, quando Baba Mustafa disse «Deve essere qui, non ho camminato più di così», il ladrone si trovava esattamente davanti alla porta secondaria della casa di Cassim. Ringraziato e ricompensato il vecchio, il ladrone fece un segno con un pezzo di gesso sulla porta per riconoscerla dopo e partì per andare a chiamare i suoi compagni. Poco dopo uscì di casa la bella Morgiana e i suoi occhi acuti videro il segno bianco sulla porta. «Che cosa significa questo segno? Qualcuno vuol far del male al mio padrone? Qualunque cosa sia, io prenderò ogni precauzione». E Morgiana, preso un pezzo di gesso, segnò nello stesso modo tutte le porte intorno. Così quando i ladroni arrivarono, armati fino ai denti, il primo compagno non fu capace di riconoscere la porta che lui stesso aveva segnata. Se ne tornarono nella foresta e il capo furente e deluso uccise il ladrone. Poi chiamò a raccolta i suoi uomini e dopo averli passati in rassegna, scelse quello che gli sembrava più avveduto e lo mandò in città. Anche per costui la faccenda si svolse nello stesso modo. Baba Mustafa si lasciò convincere a fargli da guida. Il ladrone segnò la porta con la creta rossa e Morgiana, subito dopo, segnò tutte le porte intorno nello stesso modo. Così anche il secondo ladrone ci rimise la vita e il capo si decise ad agire direttamente. Quando Baba Mustafa lo ebbe condotto davanti alla porta, il ladrone la guardò così bene che non ebbe bisogno di segnarla per poterla riconoscere dopo. Tornato che fu nella caverna, disse ai suoi compagni: «È ora di prendere una vendetta completa dell'uomo che conosce il nostro segreto e che rappresenta per noi un continuo pericolo. Io so adesso chi egli è e dove abita. Sentite il mio progetto». Quando ebbe esposto il suo piano, inviò i ladroni in città a comprare 19 muli carichi di 38 orci di pelle, due per ogni animale. ma uno solo degli orci era pieno d'olio. Negli altri 37 si nascosero i ladroni bene armati. Le bocche degli orci furono chiuse, lasciando soltanto uno spiraglio attraverso il quale l'uomo nascosto potesse respirare. Ci vollero 3 giorni per terminare tutti i preparativi. Poi il capo, vestito da mercante e seguito dai muletti col loro carico misterioso, si diresse verso la città e andò a bussare alla porta di Ali Baba. Il capo dei ladroni era così mutato col suo travestimento da mercante che Ali Baba non seppe riconoscerlo. «Entra», disse gentilmente, «fa entrare i muli nel mio cortile e sii mio ospite». Con l'aiuto dei servi, il capo dei ladroni scaricò i muletti e dispose gli orci nel cortile. Poi seguì Ali Baba nella sala dove era imbandita la cena. A notte fonda il capo chiese ad Ali Baba il permesso di andare a vedere se i suoi muletti non mancassero di nulla. Avvicinatosi agli orci, disse sottovoce: «Appena sentite cadere dei sassolini, tagliate la pelle dell'orcio e venite fuori. Io sarò subito con voi». Il banchetto era al colmo quando Morgiana si accorse che l'olio era finito e purtroppo le lampade avevano tutte necessità di essere riempite. «Non ti preoccupare», consigliò uno degli schiavi, «va a prendere un po' dell'olio del mercante». Morgiana si avviò verso il cortile pieno di oscurità e di ombre. Appena si fu avvicinata al primo orcio, sentì una voce che diceva piano: «È l'ora?». Morgiana, che era coraggiosa, non si spaventò. Anzi, si avvicinò a tutti gli orci e alla medesima domanda che tutti le rivolgevano rispose: «Non ancora, tra poco». E poiché Ali Baba le aveva raccontato tutta la storia, disse tra sé con sicurezza: «Questi sono i ladroni della foresta». Trovato l'orcio pieno d'olio, Morgiana accese la sua lampada, poi tornò nella cucina e senza por tempo in mezzo prese una grande pentola, la riempì col rimanente olio dell'orcio e la mise sul fuoco. Quando l'olio cominciò a bollire, la schiava scese nel cortile e versò l'olio bollente in ogni orcio, dal primo fino all'ultimo, e li sigillò bene, uccidendo così tutti i ladroni nascosti nell'interno. Terminato questo lavoro, Morgiana andò a vestirsi per la danza. Era bravissima e poche ballerine della corte del sultano potevano gareggiare con lei. Nascosto nella veste, tenne a portata di mano un pugnale acuminato. Quando Morgiana cominciò a danzare nella stanza dove Ali Baba intratteneva il suo ospite, la conversazione terminò sull'istante. Lo stesso ladrone, ammirato, stava quasi per dimenticare il suo progetto, quando Morgiana, chinandosi su di lui in un movimento della danza, gli infilò il pugnale nel cuore. «Disgraziata!» gridò Ali Baba. «Che cosa hai fatto?» «Ti ho salvato! Ho salvato te e tutta la tua famiglia!» E condotto Ali Baba nel cortile, Morgiana fece aprire i 37 orci di olio che rivelarono il loro contenuto. «Morgiana», disse Ali Baba commosso, «io ti restituisco la libertà e per dimostrarti la mia riconoscenza ti prego di voler accettare come marito mio figlio». Trascorsi pochi giorni, dopo aver sotterrato i corpi dei ladroni, Ali Baba festeggiò le nozze del figlio con Morgiana. Passato un anno, Ali Baba andò con il figlio nella foresta e, fatta aprire la grotta, con l'aiuto delle parole magiche, portò fuori tutto il tesoro. Finché visse, fu molto generoso con tutti, ma non rivelò mai a nessuno il segreto della grotta. E questa è la vera storia di Ali Baba, della schiava Morgiana e dei 40 ladroni della foresta.